Dai, verifica che la madre è una fesseria, dai, non c'è problema. Stavo dicendo, Riccardo, tu c'hai l'MB più 40? No, io ho l'MB 30, che non cambia quasi niente. Sì, sono, esteticamente sono uguali, gli attacchi sono uguali. Io mi ricordo avessi l'MB 40 e il Mobicom. Io ce l'ho l'MB 40 e l'ho dato a cosa? A Giovanni, insieme al microfono originale e a un microfono amplificato, un M93, che con quello sia un po' più forte. Perché sai che non è un microfono che trovi tutti i giorni, bisognerebbe fare o l'attacco, un trasformatore che te lo trasforma a 4 pin, perché sai come pin. Adattatore, non trasformatore, ricorda. Scusatemi. Diciamo i termini, devi segnare così ti ricordi le parole, diventi un genio della CB e poi più avanti di canali più su, più alti. No, sto scherzando, naturalmente non mi piace fare le correzioni, però il nome esatto è adattatore, se devi fare qualche modifica devi dire un adattatore o un emulatore, è ancora più giusto. Capo, va bene, sì, comunque devo cercarlo su internet perché non mi voglio comprare il baracchino nuovo, il baracchino nuovo, va bene. Non voglio un altro baracchino di quelli, volevo solo il microfono per anche fare una prova che non l'ho mai provato questo. È che lo dati a Giovanni, se no te l'avrei dato io il baracchino. Il baracchino, il microfono. Però forse c'ho un autopuli, forse c'ho quello del coso, dell'altro Intec, quello l'M600. Probabilmente quello lì si può. Sì, quello è autopuli. 8 a 6, adesso me lo ricordo, perché ne ho due della Intec. Non mi ricordo se uno era a 8 e l'altro a 6 o a 4. Uno sicuro, il Multicom è a 8, sicuramente. Ho capito, no, questo Mobicon è a 6 pin. Vabbè, sotto ho detto una fesseria, l'8 è il K, a 6 pin, però ne ho l'altro, aspetta, lo dico in diretta, se a 4 o a 6, scusa, sono tutti e due a 6. È il K, meglio così allora. Ciao Claudio, buona carica, e anche io sto aspettando che arrivi la pappa, dai, anche io tra poco andrò a mandigare, come si dice in lingua sarda. Ok, vai Riccardo. Ciao Claudio, buona carica e a più tardi. Roberto, siamo a 5. Non dire che devi prendere la pizza e mi fai venire la colina in bocca quando io non la prendo, capito? No, oggi pizza non l'ho mangiata, sabato ne ho preso una gigante, ce la siamo divisa, abbiamo fatta una cosa semplice, senza mettere troppa roba, però l'ho mangiata volentieri e ti posso dire anche buona. Gaffa, va bene, anche io l'altra volta sono andata a mangiare la pizza ed è l'unica volta dopo 3 mesi, meno male, ci voglio andare più spesso. No, la pizza io la mangerei tutti i giorni come la pasta, sono le cose che io adoro, pasta e pizza e anche il pane naturalmente. Però quando la pasta lievita bene, ha una buona lievitazione perché so che poi qualche volta fa male allo stomaco. Quello è importante, soprattutto giusta lievitazione e poi anche la qualità del lievito è importante perché ormai con tutte le porcherie che ci mettono in mezzo, additivi, conservanti, ci vuole roba sana e bio possibilmente, senza avere aggiunta di nessuna sostanza aggressiva per l'organismo. Perché la pasta è importante. Tutto è importante, dalla farina al lievito, all'olio che ci mettono, se ci vuole, gli ingredienti che si mettono dopo, diciamo, dopo nell'impatto, tutta quella roba che si mette in mezzo, il 90% usano roba conservata, pochi si divertono a fare i funghi loro, a fare le melanzane loro, la maggior parte prendono quelle già precotte, oppure quei barattoli, i fusti di funghi, e ce li buttano lì, prosciutto, non si sa di che animale è, eccetera, eccetera, non parliamo dei calciofini che non hanno 90%, 99,9% usano calciofini di quelli in barattolo che non servono a niente, le patatine qualcuno un po' si arrangia, però poi c'è assaggi di olive, chissà da dove le prendono, qualcuno ha salsiccia la mette nuova, ma trovare uno che ti faccia tutto buono, forse mi hanno chiamato, scusa un attimo Riccardo, dai ci sentiamo tra poco. Vai, Roberto. Santa già mangio veloce. Dai, a dopo, saluto anche gli eventuali qua amici su canale 10, a più tardi. E a più tardi, Roberto. Attento 10, c'è qualcuno su 10? Chi avanti? Chi sei? Non ho capito, Torino sei? Ti accendo più basso di prima, ma sei disturbato in mezzo al corrente. Santiago sì, però la radio c'è 6 metri al QRM, 3-4 di radio. Guarda adesso, come adesso? Ma il segnale è salito 80, però la radio boh, è un po' così, non è che mi piace molto. Un attimo ritardi. Prova a parlare di nuovo, Tonino. È un microfono originale questo, quindi magari è per quello. Infatti Mario è un pochettino chiuso, rimane. Ok, c'è anche Riccardo, no, vado, Riccardo. Ehi, mi sono spostato e ascoltare un amico, gli stavo facendo sentire la modulazione, è scappato, ho avuto un problema e così sono tornato sul 10. Vediamo. C'avevi un rumorino così, Riccardo. Ma la batteria di quel microfono buona? Sì, ma forse è la luce, aspetta che provo a spegnere, perché come prima come ho spento non stava dando. Ma senti, fa e adesso sta sempre dando problemi? Sento aspetta, provo a attaccare lo switching del di sai quale baracchino. Ma lo stai schiacciando bene il PTT tu, non è che Mario non riesce a chiuderlo bene il circuito. Era tutto a posto Riccardi quando abbiamo regolato, Adesso forse va meglio? Prova a parlare. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio. Vediamo come sta andando adesso. No, questo che sto cliccando è un tasto. Adesso come sta andando? Adesso sei andato bene, è tutto a posto. Ma prima di tutto, sembra che non stavi toccando bene il PTT. E scappa, anche adesso che ho riacceso la luce? Sì, accetta la luce. Boh, non lo so, perché lo sai cos'era? Era l'alimentatore switching del baracchino che c'era attaccato il Turner P2. Adesso lo sta di nuovo facendo, ma cosa stai toccando? Me lo spieghi tu. E adesso lo sta facendo? In questo passaggio no, però lo fa ogni tanto. Io non so cosa stai toccando tu, Riccardo. Non sto toccando niente, sto cliccando bene su TT e nient'altro. Dimmi quando lo fa che provo a vedere che cosa sta succedendo. Al momento lo fa tru, sembra, ma sei sicuro la batteria è carica tu? Sì, ho cliccato sul battery test e sta dando. Ma batteria test, tu fregate, non ti fissare troppo, perché magari la batteria, così può essere anche sballato lo strumentino, basta che ci siano un paio di volte, però siccome sono microfoni che assorbono un po' di corrente, magari ti sta segnando 7 volte e quello segna, però non riesce a amplificare bene, perché tieni presente che tu la stai spingendo come amplificazione adesso, per cui ti chiede tanta corrente. Che buono, lo so, che cosa sta succedendo. Aspetta, intanto il sistema e vabbè, non lo so cosa sta succedendo. Adesso tutto ok, va tutto bene. E cappa. Ho alzato intanto che l'RFIN era a un quarto, era praticamente a un quarto l'RFIN della radio. L'RFG lo ritiene tutto aperto, cosa vuol dire a un quarto? Deve aprirlo tutto l'RFG. Me ne sono dimenticato, stavo guardando adesso e adesso è al massimo. È per quello che tu vedevi i segnali bassi, non ricevevi niente. Succedono queste cose, la vecchiaia. Riccardi, ma devi tu, ti invito di stare sempre toccando, una volta la regolato, soprattutto l'RF gain deve essere tutto aperto, a meno che non c'è problemi di segnali troppo forti, magari vuoi attenuarli perché c'è propagazione che ti disturba, se no tienilo tutto aperto lo squelci chiuso, a meno che non devi fare altre cose, che devi fare ascolto e basta. Il microfono tienitelo regolato come te l'ho regolato io poco fa. C'è anche Tonino da Ittiri, te lo rilancio. Avanti Tonino per Riccardo. Comunque ti saluto Tony, questo ultimo passaggio non mi sei piaciuto, vediamo se Roberto concorda. No, sta andando maluccio. Ok, quello che c'avevi l'altro di apparato eri più basso, Tonino, però uscivi molto meglio. Sto guardando, mi dico, per aumentare la tappezza, devi staccare questo attacco, per cambiare il mando, un altro attacco, spegnere. Il segnale sei più di 9, però la radio è tutta impastata. La radio c'è un ritardo di cronaca, adesso devo fare questa prova, se non sarei pagato l'originale. Ho capito, però ti strozza un po' la modulazione come attacchi, la stufa si strozza la modulazione. Ok, vediamo qua su 10 se c'è qualcuno nel frattempo avanti che vuole entrare. Nulla, riprendi Riccardo. Va bene, ma adesso se posso chiedere io che cosa sta usando Tonino? Baracchino CRT, quelli di nuova generazione, quelli con l'attacco tipo rete di coso, diciamo, rete internet, CRT dovrebbe essere, non mi ricordo il modello, quelli che fanno in Cina, però dichiarano un sacco di fesserie, invece ne hanno dichiarato 10 watt, 400 canali, invece c'ha 4 watt e 40 canali. Ho capito, sì, l'ho sentito che aveva un CRT, se no ho capito male, però prima stavo usando, mi sembra, il CRT, e adesso che cosa sta usando? Sempre il CRT? Questo è un altro, Tonino. Ma non ne avevi un altro di baracchino stasera? Hai provato un altro, lo sbaglio? Non si capisce niente quello che dici. È strano che cacchio con la manta va ad arrivare a bomba qua. Che strano. Offriva la casa. La casa? E oggi da casa tua cosa hai mangiato, se te lo posso chiedere, poi dopo ti farò sapere il mio. No, roba veloce, c'erano delle favette, poi delle patate al forno, poi ho fatto dell'affettato, mangiato, del coso, come si dice, del gorgonzola, io vado matto per il gorgonzola, e poi della mela e noccioline. Questa era la mia cena veloce. Non so neanche cosa dovrò mangiare, più tardi vedremo. Adesso c'è un'altra musica, avanti. Adesso se è più chiaro, c'è un leggero effetto riverbero. Che microfono è questo? M300. Togli l'eco un attimino e parla senza l'eco. A voi, adesso ti ascolto bene, dai. Segnale quasi 8, la radio è 5. Prova a abbinarlo a questo, la stufetta. Guarda come siamo messi adesso, guarda. Adesso già è molto più forte, 9 più 5 e radio 5. Divergente, ma tu questa era la macchina. Ma voglio rimettere la macchina di nuovo. No, è molto meglio questa. L'altra, se riesci a abbinargli un microfono, perché non mi piaceva, era troppo impastata, non si capiva niente. Ci vuole, non serve la cazzo di questo microfono, adesso c'è propagazione alta. Ok, vai Riccardo, a te il mic. Adesso sta andando molto meglio, comunque Tony, mi piace di più. Non sto uscendo di radio però. Tonino, purtroppo adesso sta iniziando a sollevarsi la propagazione, ti ho sentito a tratti. Adesso questo passaggio è pulito, chiaro. Ogni tanto ci sono questi in banda laterale che danno dei problemi. Ok, dai. Riccardi, io adesso ho il trio davanti, ho messo la spina delle cuffie perfetta come l'altro, come fai a dire che è diverso? Ma cosa ne so, te lo posso far vedere, che ha un attacco diverso e più spesso quello che ho io comunque. Forse, non lo so, il mio è stato modificato, non lo so. Di nuovo difetto, mi ricadi. Non so cosa sia questo difetto, che cosa posso fare? Te lo dico che cos'è, che tu non stai mettendo le dita al centro del PTT, le stai mettendo di franco e non chiude di fianco, non sta chiudendo perfettamente il circuito. Ok, scappa, è questo, chiudendo bene al massimo, scappa, uguale, preciso identico, fa così. Ma sto cliccando perfettamente il PTT adesso, non so cosa faccio all'altro baracchino, mi sa forse. Adesso sei andato bene, Riccardo, io non riesco a capire come mai ci sono tutti questi problemi da te, Buono, dicevo. Adesso è tutto a posto, lo vedi, e poi a certi momenti sei tutto... Ma secondo te cosa lascia? Questo è l'altro baracchino? Riccardi, se tu parli così come questi due passaggi sei perfetto, va tutto bene. Poi io non lo so se lo schiacci male o lo schiacci di fianco, non lo so. Ma non è che stai usando il lock tu? Questo microfono non ha il lock. E allora non so cosa dirti, perché a momenti esci bene anche adesso, e altri momenti sei tutto bombardato. Boh, non lo so, adesso me l'hai detto, stavo cliccando al latte in realtà. Però adesso sta andando bene comunque. Ehi, perfetto, poi clicca al lato, allora prova a metterti di fianco. Da, va bene, comunque non c'è rimasto nessuno, sono tutti scappati. Magari stanno anche mangiando qualcuno, dai, diciamo siamo 9:15, in orario di cena, diciamo, normalmente a quest'ora si cena, io ho già finito, dai. Chi sei avanti? Emanuele Ginco, mi è sembrato. Ah sì, ciao Emanuele, ben sentito anche a te. Via, ciao Emanuele, ben ascoltato anche a te. Ehi, allora già ti tiro fuori, dai. Stranamente tu, al contrario di molti, il segnale non è fortissimo, però la radio è bella forte, bella squillante. Santiago 7, quasi 5 di radio, 4 o 5 di radio. Oh, Robè. Aspetta, ricadi che sta parlando. Ma è un'antenna piccolina, quindi, Manu. Dai che già ti ha ascolto, dimmi Riccardi. Ci si poteva spostare il canale perché Emanuele, cioè, l'ha coperto quello che stava dicendo, quel cretino che stava dicendo ola ola ola ola ola ola in banda laterale, cioè, ci potevamo spostare di canale perché a momenti non l'ho ascoltato. Riccardi, di nuovo quel problema. Aspetta che ripasso all'altro baracchino, sarà più brutta sarà brutta la radio, però almeno non ho questo problema, questa ansia. Io non capisco, poco fa mi ha detto, mi spingo il PTT un po' di fianco, e quando hai fatto così stava andando bene, riprovo. Adesso come va? Va bene o va male? 1, 2, 3, prova? No, ti ascolto perfettamente. Secondo me è il PTT che non sta chiudendo, ma quando lo schiacci al centro non funziona bene. Normalmente è il contrario, quando si mette di fianco. No, prima stavo cliccando ai lati, non stava andando bene. E adesso sto cliccando al centro. E allora c'avevo ragione io, mi sembrava strano, ho detto che è strano, normalmente quando tu clicchi di fianco i contatti, siccome quel microfono c'ha tre contatti sul PTT, probabilmente ne stavano chiudendo solo due, e ti faceva tatatata quello di massa, non chiude. Tu clicca sempre al centro e non sbagli. Ehi, vabbè, c'è anche un po' di propagation. Vabbè, ma è mondezzina, c'è roba sovrapposizione, banda laterale, eccetera. Non è di quella propria propagazione di qualità. Attenzione, binario 10, 27, c'è su qualcuno? Gaba. Non ho capito chi c'è, hai fatto un passaggio da eri più veloce della luce. Sono rientrato. Ehi, Robè, va bene. Stavo chiamando a Manuele 5, non mi ha risposto. Dice ti sentivo bassino. Ci sei Emanuele ancora? Hai sentito il ritardo? Devo mettere allora un Alfa Lima grosso quanto due comodini allora per arrivare da te. Anche più grande, due comodini sono pochi, ci metti un armadio adesso. E così faccio saltare la luce a casa, c'è l'alimentazione solo all'Alfa Lima. Tu guarda su internet i trasmettitori broadcasting, che quando vedi potenze da, diciamo, sopra i 10.000 watt ti metti le mani in testa. E poi ci sono quelli, diciamo, potenze megawatt, quelli non li cerchiamo, ma se vedi un amplificatore da 10-15.000 watt che sono degli armadi, diciamo, quanto due armadi a due ante. Papà, vediamo se attacco l'altro baracchino con un bel finale, se mi ascolta meglio. Tanto per poco, poi mi riattacco qui. Ok, avvisa tutti in casa a staccare la lavatrice, frigoriferi, scaldabagni, se no salta la corrente. Quando li attacchi 3 kW superi il limite del contattore, Riccardo. E Tonino quindi ha detto che entra dopo Emanuele. E lui come ti ascolta? Sicuramente ti ascolta molto più forte di me perché siete di fronte. No, Tonino già si fa ascoltare, e ascolto tutti qua, io grazie a Dio non mi lamento. Mi sono meravigliato che l'altro giorno tu sei stata la prima persona che mi ha detto che non mi ascolta. Sassa, gli ho detto cavolo, cioè io sento a lui e lui non sente a me. Normalmente succede il contrario, che sentono a me e io non sento chi parla quando c'hanno piccoli portatili o baracchini, tipo Lupo Grigio, Nicola, che lui dice mi ascoltava, però non riusciva a farsi sentire, qualche volta è capitato. Però normalmente mi ascoltano tutti, almeno qua a Sassari non ho mai avuto problemi. Ecco, ecco. Ti tiro fuori con le pinze, Riccardo. Fuori me? Con le pinze? C'hai un segnale troppo alto, per cui devo stringerti. Sì. E che è questo fischio? Avanti il fischio. Col fischio senta, come diceva Pierino, Riccardi, sempre il solito problema, come schiacci? Aspetta un secondino e poi parla. Capa, va bene. Comunque, Emanuele, adesso mi ascolti meglio? Capa, va bene. Comunque, se vedi, si sente un po' di propagation, però di, come hai detto, di quella brutta. Ma quando è così non c'è neanche divertimento, perché perdi, li senti un secondino, poi c'è l'altro. Quando c'è questo skip così non va bene. Diciamo bello quando ce li hai che ti prendi l'Italia, lì ti diverti perché è più bello. Quando c'è invece questa apertura troppo larga sono uno sopra l'altro. Già lo so che è brutto anche quando ci sono tutte quelle sovramodulazioni e che poi non puoi neanche stare troppo, che ci sono quelli che vogliono entrare e disturbano un DX e quindi ti rovinano, come dire, il questo è brutta la preparazione così. Come hai detto tu, è bella quando in Italia che sei più rilassato, non ci sono tutte quelle sovramodulazioni. È bello, molte volte è divertente, per dire, quando c'hai il nord Europa, cose così, che è locale, diciamo, il Belgio, per dire, non lo so, l'Inghilterra, che in certe situazioni può capitare che è abbastanza limitata. Però quando c'è la Germania o la Spagna, sono uno sopra l'altro. Poi la Germania sono tutti in FM, escono, arrivano segnaloni, o in banda laterale arrivano segnali da paura. No, sì, a proposito, infatti Babbo ha sentito Nederland, ci stava parlando. Comunque io una volta solo ho provato a collegare l'Inghilterra e ci sono riuscito, però non ci sono mai riuscito altre volte, solo una volta. Diciamo, non è facilissimo, però capita, qualche volta è già capitato. Ci sono dei posti molto rari, però l'Inghilterra, diciamo, qualche volta riesce a farla. Attenzione! Che avanti? Non cambiate qualcosa? È già lo grido. Il segnale è sempre 9, la radio è molto più forte. E questa qua, tutto originale. Questa è una bella radio, ma ti stai aiutando? Mi sta aiutando, però è un altro apparecchio, questo è un format, è vasto. Questa è una bella radio, complimenti. Il microfono cos'è? L'originale dell'apparecchio. Ma il palmare? L'originale, non c'è. Sta andando alla grande, avanti, che c'era? C'era qualche altro? volevo dire una cosetta a Tonino. Sì, mi ricordo. Benissimo, io la conosco, quella scatoletta di tonno del Nevada, AMSSB mi sembra, o FM, non mi ricordo, perché io ho il fratello in Wisconsin, che è solo AM, però è una scatoletta di tonno proprio, e comunque stai andando bene. Il primo passaggio, Tony, appena attacca la prima voce che dice, la prima parola che dice, gliela taglia, poi si riprende. È un problemino di quel microfono. No, non è questo nella batteria, è un tunnel abbinato a un altro tipo di apparato, probabilmente non è, perché lì è stata fatta una modifica per abbassare l'impedenza, probabilmente i relè commutano leggermente in ritardo, per cui c'era quello, ma diciamo, io ho detto, come schiacci aspetta un secondo prima di parlare, in modo che si stabilizzi il relè. Io sono provato, la sua salute però non sta arrivando, le nuove riserve ne manca. E che apparato è? Ma cos'è, un baracchino veicolare? Sì, sempre veicolare. Beh, non lo conosco questo. No, io, a me piacciono sempre, come Tonino mio stesso, quelli base, i veicolari. L'unico veicolare che ho qua in stazione è l'Aran 48, poi ne avrò altri 6 o 7, però no, non mi piacciono. Preferisco solo le basi a 220, attacchi e vai. Un bel microfono da tavolo, perché il veicolare non mi piace. Sì, vado veicolare. Io ho stato provato, c'è l'antenna però non lo so mai. Ma tu sei camionista? Sì, tutto per te. E c'è nel camion questo qui, te lo porti nel camion? No, questo ce l'ho nel cassetto, adesso lo trovo. E nel camion cosa usi? No, nel camion non stiamo usando più niente ormai, ma ce ne sono, lo volevo mettere ma non so se ne metto. E adesso i camionisti stanno usando quel sistema della Midland, il CB Talk, non so se lo conosci. Come? Cioè, usi il telefonino come trasmettitore, per cui non hai bisogno né di antenna né niente. Se vuoi prendere il telefonino, ricevi e trasmetti. E, diciamo, però, per parlare in movimento ti devi mettere un microfono particolare che costa un po' di soldini, un centinaio di euro, e si chiama Dual Mic. E tu utilizzi il cellulare come trasmettitore. La stessa cosa della LAN 48, cioè il display che appare nel monitor, nel display del coso. Nel cellulare è un baracchino uguale alla LAN 48, cambi canali, parli, c'hai tutte le funzioni del coso. In più puoi vedere la gente che in quel momento è collegata in quel canale, ci sono una marea di canali, ti puoi collegare con tutto il mondo, ti scegli anche la nazione e puoi parlare. E la maggior parte dei camionisti stanno utilizzando questo, con questo microfono da abbinare al cellulare, dual mic, che costa un pochettino. Però l'applicazione è gratis, si deve solo registrare ed è divertente, dai. Prima ti devi scaricare l'applicazione, ti registri, chiedila a Tonino, probabilmente lui lo conosce già ed è molto interessante. Ti metti questo dual mic e parli tranquillo, senza antenna né niente, in tutto il mondo parli, perché ti puoi anche scegliere le nazioni, normalmente uno si mette l'Italia oppure la Spagna, io ne ho 3 o 4 di nazioni, 4 anzi per l'esattezza, e se vuoi parlare con gli Stati Uniti ti appare, poi ti appare la persona, perché quando ti registri ti metti il nome, ti dice esattamente dove sei, perché c'è la mappa, c'è il radar, schiacci il radar e ti dice esattamente da dove stai parlando, in qualunque parte dell'Italia o del mondo, sì, diventa rossa questo pallino e proprio ti dice proprio esattamente in che via sei. Bella roba. Com'è l'applicazione? Si chiama CB Talk. Sì, va bene. Siamo avanti, cambiamo ancora noi. No, mi stava dicendo Tonino, cosa c'è da Tonino? Ero come tu stessi parlando con Emanuele, ho detto una fesseria, no? Chiedilo, Mario, a qualcuno di lì, chi c'è di Ittiri, a parte Giovanni che te lo può dare. Però tu cerca CB Talk, è scritto Talk, Midland, e ti appare, c'è l'applicazione, poi te lo scarichi, ti registri ed è eccezionale. Scusa, ero come tu stessi parlando con Emanuele, ho detto, te lo dice Tonino, convinto che invece perché Emanuele è nipote di Tonino. Posso chiedere a Antonio qua, il radioamatore. Sì, ce l'hanno, molti radioamatori ce l'hanno questa roba qua. Tu Manuele ce l'hai quella? Va bene, riprende il servizio, io adesso decido tutto e me ne vado a guardare la TV. Ehi, vai Erika. Sono ormai salutato Lino e va bene, ci sentiamo comunque. Sì, ho visto il dual mic, però secondo me mi stavano parlando che sono gente volgare qualche volta, comunque non è da spendere tutti quei soldi, meglio ti compri un baracchino o un baracchino più grosso. Allora, il discorso è questo qua, hai detto bene, c'è un sacco di mondezza, non che mi senta superiore, però c'è un sacco di confusione, gente che si bisticcia, dice parolacce, però c'è la possibilità di allontanarli con il coso, li puoi mettere nella blacklist e li oscurano, diciamo, li annientano. Però tu basta andare in canali dove c'è poca gente, quando vedi che ci sono più di 6-7 persone non c'entrare, te ne vai nei canali dove ci sono 3-4-5 persone, puoi parlare, io ci ho parlato tante volte, quando vedi che ci sono più di 10 persone lascia perdere, molte volte non ti fanno neanche entrare, se entri si iniziano a raccontare fatti loro che non ti interessano e boh, raramente ho trovato di lì discussioni interessanti, però è capitato di sentire delle persone veramente educate che fanno proprio radio, non discussioni o cose o adescamenti vari, perché di lì c'è gente che fa anche adescamenti, fa su quelle cose sia donne che uomini. Comunque questa scatoletta, adesso ti mando la foto e te la voglio anche far sentire, sarà una cagatina, però voglio togliermi lo sfizio perché l'avevo preso con quell'altro baracchino, quello che piace a te, ancora in scatola, e non questo non l'avevo provato, avevo provato solo quello in scatola e mi ha dato anche questo comunque. E che cos'è, che baracchino è? È il parente di quello che stavo usando Tonino, mi sembra, è la Fayette, questo si chiama la Fayette Wisconsin, e quello che sta usando lui è il Nevada, solo che l'unica cosa in più è che ha una banda in più. E anche io ne ho la Fayette Texas, quello che ho io. Lo stesso, ce l'ho qui accanto, la Fayette Texas. Quello tutto nero, che è un po' grandetto, dai. Viaggi, è un po' così. Comunque ti manderò foto e te lo faccio vedere, è una cagatina un po'. Ah, è importante che escano i baracchini, molte volte ci sono dei baracchinetti che ridicoli e poi magari hanno una bella modulazione, poi magari ritrovi quelli belli grandi, grossi e fanno schifo. Ok, facciamo riprendere a Manuele un attimino avanti. Sì, è vero, poi ci sono quei barrasoni grandi che poi li apri dentro e sono vuoti e non c'è niente. Poi magari vedi quell'altro piccolino che tira fuori 30 watt perché cavolo è pieno di cose, di dissipatori, di cose, dietro pesa 3 kg solo il baracchino, che quelli, diciamo, quelli un po' più spinti. Ma a me piacciono come radio di questi veicolari, secondo me i più belli sono i President, la linea della President, quelli sono quelli che rendono più di tutti, anche se la maggior parte sono tutti fuori legge, che non sono omologati, però sono dei baracchini che spingono tantissimo, prendono pochi colpi e sparano un po' di potenza. Sì, anche il Magnum, l'S9, il Colt, sono tutti belli baracchini, però ti ripeto, a me l'S9 lo vedo troppo sofisticato per i miei gusti, preferisco più i President, quelli, diciamo, quelli di alto rango, ci sono dei bei President, parliamo di baracchini di vecchia generazione, veicolari e tirano bene, li metti un bel microfono, l'S9 diciamo un baracchino di nuova generazione con un sacco di accorgimenti, però a me piacciono più quelli vecchi con i tasti belli duri in alluminio, pesanti eccetera, come dico io. E quanti canali c'ha questo qua Wisconsin, Riccardino? Riccardo si è perso, è piccolino questo Wisconsin, no, non lo conoscevo, non sembra neanche che abbia il coso del canale, quanti canali è, Ricca? Brecco, brecco, brecco, sto usando la Fayette Wisconsin. Quanti canali c'è? 40 canali. E dove appaiono i canali? C'è uno splitter piccolino digitale, i canali dove appaiono? Appaiono nel quadratino sotto la scritta Wisconsin. Ah, ho capito. E lo splitter ce l'ha a LED, così? Sì, a LED ce l'hai lo splitter. Comunque, come sta andando? No, ti ascolto benissimo. Che microfono c'ha? Il suo Palmare. Sta andando alla grande, molto molto chiara, pulita la modulazione. Non so se ti ascolta ancora, perché il segnale ti sei un po' abbassato, Ricca. Come si chiama? Emanuele, l'ascolti, Ricca? Ok. Tu lo ascolti bene, Riccardia, a Emanuele? Riccardo, Roberto, ci sei? Ho detto se lo ascolti bene, Emanuele. Ah, scusa, c'è un altro passaggio, Emanuele, che stavo sistemando. Ti ha rilanciato, Emanuele, che così ti dice il segnale. Papà, va bene, sta uscendo il segnale e cambia la stessa. Va bene. avevo 6, però radio 4, vado a tutto di propagazione. E comunque, come ho detto, mi fa piacere che non mi hanno dato una fregatura con questa radio. Guarda Riccardi, questi Lafayette sono costruiti bene, sono degli apparati molto robusti, per cui a livello di coso, di resistenza, anche se sono vecchi, fanno molto meglio di apparati più recenti che hanno un sacco di elettronica particolare, componenti economici. Questi sono fatti bene, quei Lafayette sono fatti veramente, io ho Lafayette della guerra, non so di che anno è, eppure l'avevo acceso, me l'hanno regalato in mezzo ad altre cose, mi ti regalo anche un Lafayette di Texas, lo accetto e funziona perfettamente. Pappa, come ho detto, sì, lo conosco, ce l'ho e qui già va bene a barattino comunque. Come ho detto, l'hai visto, una scatola di Python, cos'è un 10x10 come quello di Torino, mi sembra che si chiama comunque. L'unica cosa che ha anche il suo è che ha una banda in più. Non il colto, come si chiama? Il colto Shadow, così è. Non ho capito cosa era, Ben. Lo Shadow cos'era, il colto? Il colto Black Shadow, AM6D. E quello perché non lo usi più, Riccardi? Lo so, ce l'ho dentro, perché quando sono andato in campeggio ho portato tutte le stazioni base dentro e devo anche farmi uscire, devo riprovare lo stalker. Ogni tanto farli funzionare anche lo stalker, il... come si chiamava? Stalker Excalibur, cos'è? No, Tiberi Stalker 12. Sì, ho capito, anche quella è una bella radio. Tienetele sempre belle conto, che sono grandi radio, quelle prenderanno solo valore col tempo, saranno sempre più rare e funzioneranno bene. Va bene. Comunque con questo... quando sto arrivando, che sto uscendo ancora di meno, 4 watt sto uscendo. 9 più 15. Beh, va bene. Dai, ripasso al baraccone. Adesso vediamo con Emanuele, memorizza questa modulazione, mi ascolti? Adesso io cambio microfono e mi dici cosa cambia, se mi ascolti più forte o come. Questo è l'altro microfono, come mi ascolti con questo? Più forte la radio? L'altra ti piacerà di più come modulazione. E lei, ma chi è la più forte delle due a lunga distanza, dico quando c'è il segnale basso, questa o l'altra? Ti piace di più? Molti mi hanno detto così, sono un microfono completamente diverso. Naturalmente questo c'ha modo di fare tante regolazioni rispetto all'altro, che l'altro è così fisso, non puoi fare niente. Questo ti permette di utilizzare tante regolazioni, un po' complicato da regolare. Infatti quando ci avrò tempo cercherò di renderlo un pochettino più fedele. Però mi dici che la voce ti piace a te. Uno di quelli, diciamo, qualcuno mi ha anche detto che è meglio questo, e tu sei uno di questi. Ora beh, ma adesso cosa stai usando? Se te lo posso chiedere, la Donis? Eia. Questo mi piace perché il PTT lo sfiori, cacca, non devi premere duro come l'altro, questo basta sfiorarlo appena appena, tink, si illumina la luce e ti dice che sei on air, e poi c'è il modulometro che si muove la lancetta. No, il 60 era l'altro, questo è un altro tipo di microfono, è un Adonis 908, questo c'ha l'equalizzatore, compressore, eccetera, eccetera, tante possibilità. A me piace perché è più moderno, più coso. Io adesso quando ci avrò tempo, se troverò a buon prezzo un MC60, me lo prendo e me lo modifico come dico io, come mi ha detto un amico che lui l'ha già fatto e c'ha una modulazione da paura. L'MC60 serve a un amico mio. Ma mi va a prendere la stessa ragionevole, adesso la gente sta diventando furbetta, ce n'è uno in contatti, due in continente, questo qua sta avendo degli apparati, più c'ha 2,60, uno a 50 euro e l'altro a 65, quello un po' messo meglio, sono tutti e due efficienti, a me non è che mi interessi che sia nuovo o fiammato, è importante che funzioni. Quello che dici tu quanto lo sta vendendo? Ma quale? Aspetta un attimino, scusa Riccardo, quanto lo sta vendendo quello che dici tu, Emanuele? Quello che dici tu, quanto lo vende il 60? 120, cazzo, non sta scherzando. No, 120 euro te lo compri nuovo. Se la c'avevi il 44 o il 14? No, metto, c'avevo la linea della K. Se la c'avevi il 14 o il 44? Ma nella 27 è migliore il 440. Il 450 è bellino esteticamente, però ti dà un po' meno potenza del 440 in AM. Il 440, se tu li fai il lavoro che devi fare, ti tira fuori 100 watt in AM. 50 mi sembra di tenere una 40, è più moderno come apparato, un po' più delicata, però è bello anche il 450, a me piace, l'ho sentito qua in radio tante volte e funziona discretamente, niente da dire, però ripeto, secondo me è il migliore di tutti il 440 e si avvicina anche il 430, il 140 escono quasi uguali, però hanno dei limiti perché hanno poche memorie, il 140 è un po' complicato con quei controlli di potenza del Mickey Games, sono troppo delicati. Io preferisco di tutti quelli lì, tra 680, 140, 430, migliore è 440. Oh Roberto, dimmi tu. Adesso vorrei fare una comparazione tra il Tornado con il Turner e l'SPA con il Turner, qual è la migliore? Ricadì, allora fammi le prove e mi dici questo è uno e poi l'altro, dai. Eia, perché tanto adesso non ho nessuno di due e mi devo attaccare intanto, pronto. Questa che stai usando cos'è? Non ho capito, cosa Roberto? Questo cos'è? Wisconsin? Sì, quella scatoletta. Vabbè, già esce bene, con che microfono? Con il suo microfono palmare, originale. La radio è bella chiara, non è fortissima, però è pulita e chiara. Esatto, vabbè, sono comunque 4 watt, non è una cosa, ci sono i potenza, però se sei scritto bene, così. Ma ricordati Riccardi, non è tanto la potenza che conta, perché quando tu puoi avere anche un segnale di 7, però se la radio è 5 pulita e chiara va più che bene. Adesso per dire, Emanuele, il segnale non è forte, però la radio è molto chiara e amplificata. Se dovresti attirare bene, è molto meglio di altri che hanno segnali 9 e devi aprirti le orecchie, se no non li senti. Aspetta, toccando un attimo. Vai Emanuele. Un altro baracchino, lui è collezionista di baracchine, ne ha una marea, adesso sta provando l'SBE e poi prova il Tornado. Dai, che si diverte così, dai. Riccardino ci mancava qua in frequenza, ci voleva una persona appassionata, ricca di entusiasmo, di cosa. Non i soliti vecchi, mi hai compreso. vecchie bacheche. No, io ho iniziato da bambino sempre, vabbè, mi è sempre piaciuta la radio, sempre appassionato, però che sono entrato effettivamente a fine del 2004, ne ho fatto tanti anni, poi alla fine piano piano ho mollato e poi sono rientrato, mi rientravo ogni tanto, così adesso poi con coronavirus la sera c'avevo un po' più di tempo e entravo. Speriamo, dai, che la passione ritorni e che rimanga, però ne dubito un pochettino, magari quando inizia la bella stagione che vado un po' in giro, che esco col campo e ci sarà un po' di meno qua, dai. Brecco, adesso sto usando l'Intex Tornado 34 Esce, registrate questa modulazione. Hai sentito Emanuele, Riccardo? Anche io ho iniziato con un portatile della Intec, un 40 canali senza smitter, non è niente, e poi subito dopo qualche settimana una 48, poi un stazione base della faccia e poi tutto il resto. Adesso posso dire che ho qualche cosa di interessante, dai, poi antenne, subito, prima uscivo con la Gran Premi, l'ho tenuta una settimana, poi subito sono passato alla Mantova, e c'ho sempre quella lì, dal 2005 c'ho la Mantova. E sta sempre andando ed è una grande antenna, non gli posso dire niente. Vai Riccardo con l'altro. Ok, mi registrate questa modulazione, tutte e due e anche le orecchie di porco che mi danno un parere. E questo è il 34S e subito attacco l'altro. Questa è bellissima, l'hai sentito Riccardino Emanuele? Sì, 34S con il Turner, come si chiama? Boh, non mi ricordo quello, ma quello col controllo di tono, ogni volta mi dimentico il coso, il tipo. A chi? No, ti ripeto, io non è che ci sono da molto, perché poi ho mollato, ogni tanto qualche volta, ogni un mese, due mesi, tre mesi accendevo la sera se c'era qualcuno, ma ero tanto tempo senza accendere, anche più di un anno, poi ho acceso, adesso sto riprendendomi da febbraio, da quando c'è questo coronavirus, anzi da marzo, quasi tutte le sere ci sono. Brecco, adesso sto usando l'SBE con sempre un Turner, ma non è lo stesso Turner. Sono belle tutte e due Riccardi, questa rimane un pochettino più chiusa come modulazione, un po' meno acuti sento, però è molto chiara e pulita, l'altra è un po' più naturale, mi piacciono tutte e due comunque, ottime tutte e due, niente da dire. Vediamo se ha notato qualche differenza magari col basso segnale tuo, Emanuele. Non hai sentito questo passaggio Riccardo? Già ti sento Emanuele, sì, faccio un altro passaggio e provo, come hai detto adesso le mie condizioni di lavoro sono un baracchino SBE 40 canali con un microfono Turner. Autonomia o il diavolo arriva, sto scherzando, ciao Gianni. Buonasera a tutti, doppio uno a questa parte, avanti Ginko, Ginko. Sì, Gianni, a te dovrebbe arrivare fortissimo Emanuele, perché dice c'è l'antenna orientata verso San Camillo, tu sei di fronte, più o meno dovresti arrivare. Sì, a me Ginko mi arriva bene, dai. Mi arriva molto bene di radio, di segnali, tutto ok. Sì, già lo so, ma dico quanto. Qua arriva 7-8, radio quasi 5, però è bella amplificata. A te oltre 9 ti arrivi. Sì, a voglia, provaci. 9.15, con picchia 9.20. Immaginavo, infatti, perché lui dice c'ha quel radialino esattamente dalla porta opposta di dove sono io, orientato verso lo zio, verso Tonino, un radiale di Mantova montato così un pochettino in condizioni precarie. Comunque è già tanto che riesce a farsi sentire e sono contento, considerando che verso di me è completamente sfavorevole. Sì, sì, ma ci sono persone più vicine di te che non lo sento, da te si fa sentire. Nel cammino tu lo ascolti? Positivo è Caparogero, sì che l'ascolto Emanuele. E in zona va bene, poi c'è un bel apparecchio, dai, adesso c'è un bel apparecchio Emanuele, dai, si sta rimettendo in sesto. Gianni, vabbè che lui è un radiale, però visto che sei vicino, per chiederti adesso quando ti sto arrivando con questo baracchino? 20-20, non bastava 8. Aspetta, c'era qualcuno che voleva entrare, avanti che fischi. Nulla, Riccardo ti ha chiesto un controllo, Gianni. Oh, ma Riccardo, mi siete sovramodulati con Ginko, non ho capito né uno né l'altro. Avanti, Riccardo. Aspetta, scusa che ho attaccato di nuovo l'altro baracchino, riattacco l'altro, scusa un attimo. Fai sentire quello che abbiamo regalato, ritardi, quello col Tanner, il cos'era, non me lo ricordo neanche che baracchino era. Ah, è tornato. Nulla, non è arrivato quello là, ricardi. Dice di no, le stanno aspettandomi adesso. Ha provato un Tornado 34S con il Tanner, cacchio, c'ha una bellissima modulazione. Anche l'SB esce bene col Tanner comunque. Ma attenzione, binario 10, se ascolti l'isola della Sardegna che chiama. E arrivi 9.25, dai. E vabbè, sono con un baracco da 6 watt. Con l'altro esco con pochi pochi più watt. Sì, ma non fa testo perché siamo vicini, Riccardi. Noi ci sentiamo sempre bene perché siamo in linea d'aria vicini. Già lo so che siamo vicini. Questa è bellissima, ti piace questa modulazione? Sì, sì, è molto fedele, diciamo. Sì, molto naturale, pulita, come piacciono a me, senza affrontoli. E anche quella di Coso mi piace, di Emanuele, considerando che il segnale è 7, non è forte, però riesco a tirarlo bene fuori. Quasi 5 di radio, pulita. Sta facendo con un apparecchio modificato, non è che sia un apparecchio normale. È un Galaxy Saturn Echo modificato. Bene per quello. Ma spinge molto bene la radio, mi piace perché normalmente i segnali così bassi di radio ma così intendono, invece lo ascolto molto forte. Perché hanno questa prerogativa, gli apparati modificati possono uscire a basso di segnale ma nel radio si sentono sempre bene. Ehi, oh scusate, mi allontano 5 minuti, arrivo subito. Ehi, avanti Manuè, e io arrego alle 9 c'è apparecchio. Comunque esci bene con questo microfono, perché lo vuoi sbolognare con il microfono? Che microfono stai usando adesso? Capo, io c'è l'originale del Saturn Echo, proprio con la scritta Saturn Echo. Come tu mi hai dato l'apparecchio ti do il microfono. Come esce questo qua? Questo apparecchio qua, questo è il Galaxy Saturn Echo che sto usando, il Saturn Echos, che regalo, no, Cosa Delta Master Plus, Cosa Delta, questo, l'MV5 lo uso con 3009, no, quello da tavolo, sì, anche Tonino ce l'ha con l'MV3, esce un bebè, ma anche questo qua non esce male, dai. Va bene anche questo, ecco se ne sente, è un tantino ne ho messo, se vuoi lo metto di più ma poi dà fastidio, invece così è di lusso. Avanti Giacomino. Ma Giacomino si è assentato, vabbè. Soli siamo rimasti. Allora di che cosa parliamo? Di apparati? Siamo andati per prendere quel microfono per te, capito? Pensando di trovarti a casa, Tonino invece non ci. Vabbè, dai. Domani te lo porta. A te pescare ti piace, sì. Ehi, organizziamo qualche pescata qualche giorno, ce la facciamo. Cavaliera, andiamo dove dico io. Oppure anche dove dice Tonino, il Tupiti, la settimo Piti. Che lì ci sono le orate belle, ma non sono ancora entrate le orate. Saraghi ci sono adesso, quando c'è mare, devi andare a Saraghi. Dottor Nadu. Vai. Ehi, ho sentito orate, se ho capito bene. Cosa hai sentito? Orate, sì, Saraghi, orate. Stavamo parlando di pesca.